Maria, cosa stavi trasmettendo in morse? Sì, come sono morse. Come stai, amico mio? Com'è? Tutto a posto, quindi sto guardando il ciclismo, in grande Nibali. Bene merita. Io, vabbè, stavo facendo zapping con quello strumento diabolico chiamato TV, giusto per ingannare un po' l'ora, e stavo guardando quella grandissima pagliacciata di quello che viene chiamato Formula 1. Dai, oramai è uno schifo, è diventato uno schifo, motori elettrici, no, per carità, meglio niente. Kappa, vabbè, senza contare che poi, cazzo, ci sono delle taccole che non seccano mai, cazzo, quelle che sanno tutto, iniziano a fare viaggi, cazzo, si inventano, cazzo, sono ore che stanno sparando cazzate, cazzo, guarda, insopportabile, dà veramente fastidio, cazzo, sentire certe cose. E per quello io seguo il ciclismo, perché il ciclismo è... Vabbè, lascia fare i doppi, che adesso nel ciclismo l'hanno proprio debellato. È una cosa vera. Cappa di rosmetro, come dice qualcuno. Amico mio, senti un po', ho cambiato l'antenna e ho messo di nuovo la boomerang, perché con il tempo come questo praticamente vedevo che mi dava un sacco di stazionari, mi dava anche un po' di potenza alla radio. Fammi la cortesia, dimmi come a livello di segnale se è cambiato qualcosa. Qua c'è presente, sei fissi, sei quasi 7, modulati arrivi a 7, tranquillamente. KK, ok, bene mera. Sì, l'ho smontata, l'ho levata perché era veramente instabile, cazzo, sono arrivato ad avere anche quasi due di stazionarie quando con giornate di questo tipo, e ho scoperto che riattaccando questa con la stessa radio praticamente mi si è alzata leggermente la potenza. Aspetta che c'era qualcuno che cercava il sopravvoturato, ma non ci è riuscito. Chi è? Vai, va. Vabbè, non riesci, vai, lasciami il curio, è imbecille. Mi stavi dicendo, Gianni? Ho detto che con la Ringo praticamente, con questa radio, lo strumento mi dava 5 watt spaccati. Quando ho cambiato l'antenna, ho messo la boomerang grande, sempre con la stessa radio e con lo strumento acceso, praticamente la radio mi segnava a 6 watt e mezzo. Ah, ecco perché adesso arrivi più forte. Io me ne sto sentendo tutto qua, adesso mi sto scoccolando. Niente, non ne ho io. Sì, quell'antenna mi tirava via anche un po' di potenza. Questa è stabile. Questa è stabile 1 e 2. 1 e 1, 1 e 2. Rimane lì ed è bella tranquilla anche con la pioggia, quindi va benissimo. Hai aumentato un po', eh? Hai aumentato. Bene, Mela, oggi riposo, non è qui. No, adesso vado. Adesso vado a lavorare. È tra le 7. Ok. Dai, pensavo che per te fosse giornata di riposo anche oggi, dai. Magari. Sempre lì alla porta, no? Già, aspetta da questa parte. Caspita. Bene, dai. Adesso diacono abbiamo ancora per domani. Vediamo un po' se questa estate ha una gana di acciararsi. Dai, da martedì inizia l'estate. Da martedì confermata l'estate. Punto di 25 gradi. Andato pure. Bene, meda. Oi. E beh, per il resto, che mi racconti? Niente di... Altagracia, vabbè, insomma la sto usando qua in città, nessun viaggio perché sono sempre qua, sto sempre a lavorare, però la sto usando in città così per anche a Sasse, ma niente. La sto usando così, tanto per farla scaldare. Sì, sì, fai bene a fargli sgranchire un po' la... un po' i cerchioni. Ovvio, ovvio, ragazzi. Io, a me le giornate così mi mettono tristezza, cazzo, sono meteoropatico. E quando vedo il cielo grigio, cazzo, mi viene la malinconia, ragazzi. A cui niente va la radio, ci ha fatto un aria. No, non c'è, vabbè, non sento nessuno. Se la tu, cosa faccerà? 100 euro vado. Caspita. Vedrai che già salta fuori... già salta fuori la cui niente, prima o poi, ragazzi. Sì, nuova nuova, nuova nuova. 100 euro va bene. Va super bene, va super bene. Cazzarola, oia. Oh, yeah. Bubu. Vediamo se c'era qualcun altro stasera. Siamo ancora attaccati alla televisione magari. Io avviso, ci sono, gli americani ancora. Loro ascoltano. Il grande fratello in ascolto, oia. Oh, yeah. Crocro. Sono riuscito a fare qualche collegamento i giorni scorsi, mi sono divertito un po', nel mio piccolo, mi sono tolto qualche soddisfazione. Ehi, ma qui non ho entrato. Boh, l'ho sentito tramite messaggio vocale qualche giorno fa, e insomma, non è così motivato ad entrare, c'è altre cose da fare, quindi giustamente... ha deciso di stare un po' fuori dalla radio, dai. Ehi, ho già lo sentito anche per messaggio. A cazzo, ragazzo, vai. Ascolta, pipistrello, che dormi sopra i pugnati, il stufati. Io sono il crocro. Ah, sono tutti accoglienti. Ascolti lì, è troppo caldo, non mi fai pranzo. Ciao Luca, buonasera. Ciao Luca, buonasera, ben entrato. Sto confabulando con Eugenio da Porto Torres. Ah, saluta, ma dopo già entro a casa, dai. Capa Roger, Eugenio, lo senti Luca? Tu, no, a casa, no, negativo. Lo sta modulando e chi è Luca? Vabbè, no, no, lui non ti sente. Comunque, salutone da Luca per Eugenio. Niente, non, Eugenio non riesce ad ascoltarti, tu chiaramente sei in quella posizione che sappiamo, quindi non lo, probabilmente è per quello. Ma chi è Luca del Monte? Siamo da Italia, là. Sentiamo mai dopo la casa, già. Ciao. Capa Roger, sì, Eugenio, è Luca come dici tu del Monte, è che è in un'altra posizione con un altro apparecchio, un'altra antenna, però in questo momento ha un'antenna che gli sta dando qualche problema e quindi non riesce ad uscire in maniera corretta. Comunque ti saluta Luca e dice che entra nel suo QTH ufficiale dopo, dai. Sì, già ci conosciamo, dai, per radio, perché prima l'ha ascoltato molto bene. Eh sì, ha un'altra situazione con un'altra piccola radio, un'altra antenna che però non sta andando come dovrebbe, quindi ha qualche problemino. Ma a livello di CB a Bossodoro non è rimasto nessuno? Io? Uiuiui, number one, no, dico a parte gli scherzi, non c'è nessun altro che ancora è attaccato a CB, no? C'era Luca, mio amico, ma litigato, non so che sia successo, che non è entrato nel 10. E poi non sta modulando neanche, non credo. Poi c'era Sandro Tigre che non modula più. adesso il perché. Sandro Sigre era accorato un po' bene, però non modula più. E poi va, stavamo già a posto, questo che è morto, Bovaraccio, e basta. E, ma piano piano, questo canale si sta ripopolando piano piano, anche prima era in 3-4. Ehi, sì, sì, sì, vabbè, adesso te l'ho chiesto giusto per curiosità, non conoscendo l'ambiente, quindi era giusto una curiosità che mi volevo togliere, mi. Luglio, 2019, ritornare al CB, dai, comunque, già una cosa simpatica. Crocro, che ora sono? Invece meno 10. Olbia. Volevo dirti una cosa, ma è passato di mente. Piano piano si ripopola, vedi, adesso sei entrato tu, è entrato Luca del Monte, che era un po' non sentivo, piano piano già si ripopola. E funziona così, mi poi tu vuoi già essere sul baracchino, parlo, magari è un tuo amico, lui lì si, come si dice, si incuriosisce, allora inizia una piccola radio anche lui, una piccola te, e piano piano si ripopola. Certo. Sì, funziona così, o perlomeno magari qualche vecchia fiamma, cazzo, che a cui gli ritorna la passione, come è successo a me. Vabbè, diciamo che poi la prima volta non è che è durata così tanto, però insomma sono stato sempre curioso e quindi mi sono riaffacciato a questo mondo. Sì, quando adesso per dire ho fatto qualche DX l'altra mattina, sono riuscito a parlare con l'Inghilterra e con la Spagna e già mi sono arrangiato sia con quel poco di inglese che conosco e anche vabbè, lo spagnolo che, di cui ricordo veramente ben poco. Ho fatto usare il gergo CP, Alfa, Sierra, Lima, tutte quelle minchiate lì, poi no, se le tue incontri rispondono di conseguenza. Sì, ma già ci siamo capiti a vicenda, con un po' di spagnolo mischiato, un po' di castigliano mischiato all'italiano, e anche dall'altra parte lo stesso, hanno tentato di farsi capire parlando sia in spagnolo che in italiano, e nel caso inglese, sai, qualche parola anche la spiccicavano, quindi già ci siamo capiti, dai, c'è stato uno sforzo da entrambe le parti. L'importante è capirsi. Sì, è che con i francesi io ci ho provato, ma è veramente difficile. Con i francesi devi dire di loro che ti capiscono. Adesso bide, adesso bene un clacson. Tu dici bide, loro dico, sono italiano. Adesso bide. Oh, yeah. E beh, lì nel porto camionisti francesi ne girano. Sì, francesi, di tutto lì, da chi? Quando è l'altra sera, non so se erano camionisti o erano in stazione fissa per la propagazione, comunque c'erano, sono entrati un paio da Ragusa, credo, adesso non mi ricordo dove. E niente, forse per via dei segnaloni che arrivavano sembrava che ci stavamo sopravmodulando, poi niente, alla fine ci siamo sentiti e ci siamo spostati sul lotto. Forse era propagazione, non so se erano camionisti. Grazie. Ma quelli che conosco io sono sempre attrezzati. Cioè, gli altri che sono 2 kg, 4, 5 kg, sono tutti polarizzati. Me lo immagino. Chissà, ragazzi, quanti pacchi batterie c'hanno, cazzo. A parte, vabbè, il generatore e la corrente del camion, dico, avranno anche qualche aiutino a livello di corrente. Sono fuori, sono allucinanti. Cioè, poi hanno dati non preparati con l'eco, come così lì. Ma non ti è capitato, ti sarà capitato di vedere qualche apparato super stravagante? La voglia. meccanico Daniele, vabbè la sigla mi rimorchio, Danny Trafford, va un impianto GP, quella di Gaffo. Immagino, ma generalmente la radio più stravagante che hai visto, che radio era, se si può dire? No, la maggior parte hanno tutti, la maggior parte lo abbiamo tutti la 38, no, la 48, la 48, quello più forte che ho visto aveva il President, non so cosa, che lo teneva imboscato da un sedile dell'altro. Perché aveva la lanzella, non l'ha fatto messo quello che usano loro, però era collegato, usava quello grande. Ammazzato, compreso. Sì, praticamente specchietto per gli alloro, era. E poi in pratica drattabaraccio. Bene, cazzo. Già ce ne saranno fuori di capo. Sentendo qua, anche qua nel 45, cazzo, che ogni voce è un casino, non si comprende nulla. Sì, c'è addirittura Andrea che ha due antenne, dice che ha una ricezione da paura, ha messo due antenne e poi ha fatto la scanna di piano per poterci caricare non so quanti chilo qua fuori di piano. Quando parte la, come si dice, la mania di queste cose, tipo gli impianti car audio, no? O altre situazioni del genere, c'è sempre quello, cazzo, che ha l'idea più stravagante di tutti, cazzo, questa delle due antenne non lo sapevo. E poi sono collegati con una T, e poi faccio il capo al CPK. Cioè quelli non parlano tutti qua, certo qua, in cui si cambiano, si parlano di chilo qua, infatti non interessa neanche più. Immagino. Hanno cambiato l'unità di misura, cazzo. Vabbè. Cazzo, avranno la stufetta per l'inverno che è stata sempre attaccata. Ci sono fuori da aprile. Ma parlano da Milano a Roma, su Panta, un casino. Dico, stanno in cieco. Qua si è persa un po' la cosa dei baracchini, qua in Sardegna, i camionisti, ma fuori. Cioè però me lo c'erano, ma non lo accendono qua in Sardegna. Cioè quando andiamo fuori per forza lo accendi e è uguale. Certo, immagino. Ma vedrai che sicuramente ci sarà una, come si dice, un ritorno alle origini, dai. Quindi sicuramente già molti lo rimetteranno dentro la cabina. Beh, speriamo, perché è anche divertente, certo. Adesso con questa antenna tu mi stai arrivando a Santiago, sì. Sì, prima arrivo più forte. Ehi, guarda, più o meno la stessa cosa, Eugì. Ti ripeto, non ho... Sì, magari in ricezione, visto che era, insomma, appena più lunga, riuscivo a guadagnare un cc in ricezione, ma non tantissimo, però più o meno, dai. Non è cambiato così tanto rispetto a prima. No, la tua trasmissione è buona. Il segnale è buono, eh? Il segnale è sempre fisso, la grande. Ha aumentato con questa prova. E sicuramente quella della lega è più. A voglia. Poco fa sono andato su 52 e anche lì c'era, nonostante la giornata non ottimale, già c'era gente bussando, ragazzi. Adesso non c'è un po' di preparazione, io sento voci, se vai su 45 sicuramente c'è qualcuno. Sì, ogni tanto qualcuno l'ho sentito, ti stavo dicendo anche sul 52 già c'era movimento. Vediamo un po' il 52 che frequenza. 27.555. Ah, invece il 45 era 27.4, beh. Aspetta che te lo dico, 27.465. Sì, ma c'è il frequenzimetro da darci. Sì, in questa radio c'è il frequenzimetro. Bella, quella è sempre giù, così è. Caparro. Roger, sì, ho trovato il trimmerino per aumentare la potenza, vabbè, ho provato a tirarla su, ma più di tanto non va, in questo momento, a strumento mi dà 8 watt e mezzo, 8 watt, 8 watt e mezzo. Ma è diventato il tuo, Boh, per adesso è ancora così, adesso vediamo un po', appena una possibilità concludiamo, dai. No, capito, devi andare, no, per la radio. Sì, va bene, no, vabbè, adesso dico, fisicamente qua, presumo, sono quasi sicuro che rimarrà qui, quindi non ci sono problemi. Ah, va bene, vabbè, la radio, su quel fine, c'hanno i canali, quello, così? Sì, canali su e canali giù. Sì, ma dici, mi rispetti, segnali canali. Kappa Roger, sì, al classico, il contacanali e il frequenzimetro, dai. Bella, invece questa ci segna continua, c'ha 2 miliardi di canali. Sì, aspetta, okay. Come aggancio il telefono ti mando la foto, non so se te l'ho mandata. No. Dammi un secondino e ti mando la foto, dai. Dai. Sta caricando, la sta caricando, vediamo quanto ci mette. La sta caricando, guarda il telefono, la sta caricando, forse perché l'ho scattata con la definizione massima. Sì, adesso mi dà la conferma che è mandata. Ok, adesso aspetto un pochino. Arrivata. Sì, bello. E no, già lo conoscevo. Sì, già è carina, dai. È carina, esteticamente mi piace. Sì, una bella radio. Fa egregiamente il suo dovere. Anche quello ha il coso rosso e bianco colato. Sì, ma Marco mi ha detto che praticamente, insomma, non, giustamente è più attendibile lo strumento esterno, mi ha detto di non farci molto affidamento. No, io ho provato lo strumento esterno con il rosso esterno e qualcosa di lato uguale. Ma se per questa o la tua? No, la mia. Kappa. Aspetta che ho sentito qualcuno fischiare. Avanti, chi vuole entrare su 10? Boh, era basso, Santiago 1-2, la voglio dire, è marchiato, non so se nella foto si vede, è marchiato Proxel? Sì, c'è un adesivo sotto lo smitter, Proxel, sì, c'è la targhettina rossa, marchiato Proxel. Sì, quella rossa, l'ho visto. Bene, Meda. Oi, e se vedi, dopo controllo una cosa. Allora, vediamo un po'. Allora, i watt sono, passa da 8 a 9 di picco, mentre sto modulando. È normale. È buono. Ah, 8, tra 8 e 9, dai, comunque, rispetto a prima che eravamo 5 con l'antenna strozzata, dai, abbiamo guadagnato qualcosina. Questo non so con quanto pazzesco, adesso è 10 o 15 tu. Magari, sicuramente avrà un po' di gas in più. Come sai, ci sono le versioni, quelle omologate, le versioni, quelle per gli altri continenti che hanno una potenza diversa. E niente, questo è omologato, quindi. No, questo c'ha il pulsantino. Guarda un po' quanto mi ha segnato sia da parlare. È instabile, ma hai schiacciato qualcosa? No, guarda, io non parlo, guarda come il segnale. Guarda, sei 5.5-6, dai. Insomma, 5.5-6. Ok, e adesso guarda, faccio un altro passaggio, un attimino, e guarda il segnale. Sì, Santiago 3.5 e spiccioli, dai. Bene Meda, bene Meda. Sì, sì, si vede la differenza, dai. Bene. Se ci sta per me andando via. Dai, ci sentiamo da furgone, così mi fai compagnia dal posto, dai. Eugenio, sei piccolo piccolo nel furgone, sei piccolo piccolo. Come faccio a essere piccolo piccolo? Perché così, buonasera. Buonasera, buonasera. Se mi ascolti vuol dire che va bene. Sei piccolo piccolo, più forte di te, guarda. Cosa vuol dire piccolo piccolo? E quando sei in furgone sei in basso. Ah, il furgone. Vabbè, il furgone è una antenna piccolina. Ho anche l'antenna grande, se vuoi. Ma non mi vuoi. E allora mettila che ti stanno sopramodulando la propagazione. No, il furgone è già un'antenna piccolina. E non c'è più nessuno in macchina, capito? Non lo so. Chi c'era, Gianni? C'è Gianni. Ciao Tino, buonasera. Ciao Gia, buonasera a voi, dai. Sono appena rientrato. Io sto sopperando questa parola, se ti interessa. Guarda, io ti ho fatto una proposta, non l'hai accettata, peggio per te. Non mi ricordo quale proposta me l'avevi fatto. Certo che ti dà uno come questa che sto utilizzando ora, però ho modificato 120 canali più una camera ecco. No, no, no, io voglio raggiungere la base. Lo so, ma io purtroppo non c'ho soldi, quindi devo spacciare. Ci mettiamo in società, che faccio un altro lavoro che possiamo fare insieme. Va bene, io produco, tu vendi. No, cosa? Non produciamo niente. Noi prendiamo e la andiamo in casa. Va bene, va bene. E me lo rispondi oggi, va? Sì, dai, non ti sporcherai mai. Ma voi ragazzi, io vado a lavoro. Ci siamo alla furgone, ciao. Merto a te, ciao oggi. Ciao oggi, salutoni, dai. Ci si aggiorna. Grazie alla chiacchieratina, momentaneamente, poi vediamo un po' da furgone se riusciamo a proseguire, dai. Sì, là, no, dai. Tanto mi sento preparato, mi sto scendendo. Aspetta, Eugenio, dammi un controllo del segnale. Dalle due parti che sto provando un amplificatore piccolino. Qua di 9. Di 9, dai. Modulati 9. Bene, aspetta un attimino che stacco. Ecco, questi sono i watt dell'apparato, eh. Guarda un pochino. Sì, modulati 7. Allora già va bene. Già spinge già, dai. Va bene, ci siamo da già. Ciao. Ciao, ciao. Devo provare ad Alghero a vedere come va. Ho zona negativa qua Alghero. No, ci dico da questo mio qua, io ce l'ho aperto. Questo ha sconfinato te. Mi sa di sì. Sto provando altro ma non mi va in ascolto adesso, guarda. Ha un problema questa radio, quando lo metto, non questa, quest'altra che c'avevo in ascolto. Le base vintage. Quando lo metto in FM ci metto un po' a riandare in AM. Ho capito. Ma è a favore o transistorizzata quella radio? Guarda, non lo so. Aspetta che provo a vedere, a riaccendere. Siamo qua facendo direzione nord Italia, Montezuma, capisci a me, senti S9. Quello base. Sì, è quello, però sentivo la mia modulazione dopo che mollavo il spostata alla volata un pochino, come dicevo io mi ripetevo un secondo momento, capito? Tipo in piani, capito? Quindi siccome ho una modifica nel tappino del PA, sicuramente è entrato il PA anziché l'FM, hai capito? Questa nasceva con AM, USB e LSB, però è stata fatta una modifica per l'FM nel tappino del PA, non so se mi sono spiegato. Quindi io pigiando andavo in FM, invece adesso è come ferma in piano, e cosa succede? In PA quando tu parli ti dovresti sentire, però me lo dai in effetto secondario, cioè io parlo, quando me lo dà portante me lo ripete, ok? Beh, ho capito, in maniera ritardata, dai, ho capito. Sicuramente si è incantato un po' il tastino, non so, adesso vediamo, perché l'ha fatto già altre volte. Magari prova a smanettarci più volte, magari si è bloccato qualcosa. Sì, ha una buona recezione anche in USB, solo che di watt lì mi sembra 3 watt, mentre invece in FM ne dà 7-8, anche in AM. Ho capito. Ha già capito. C'è S9 ogni tanto sale e scende. Va bene. Sì, adesso riprovo. No, niente, non ho fatto. Adesso vediamo, lo lasciamo così pigiato, vediamo cosa succede. Sono passato per qualche secondo a 45. Mi è sembrato di sentire Massimiliano, Daniele e Claudio. Prova a andare, Kappa. Eugenio, Papa Tango, Eugenio, mi senti?